Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Noi oggi iniziamo ad affrontare un disturbo molto fastidioso e anche doloroso, il mal d'orecchio. Chi non lo conosce per esperienza diretta o indiretta? Allora proviamo a raccogliere tutte le informazioni necessarie per prevenirlo, magari si può, affrontarlo e soprattutto liberarcene rapidamente, evitando che ritorni. Oggi parleremo anche di un compagno del mal d'orecchio, il mal di gola. A molti di noi sarà capitato, no, di chiedersi se quel dolore che si irradia proprio tra orecchie e gola fosse da attribuire a un'otite o ad una tonsillite. Allora non preoccupatevi, state lì perché noi vi daremo tutte le indicazioni per fronteggiare le situazioni e non avere dubbi. In linea con noi è tornato a trovarci il dottor Franzetti. Buongiorno, bentornato. Buongiorno a tutti. Primario di otorino laringoiatria all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. Ci raggiungeranno nel corso della puntata il dottor Firenzuoli, che come sapete è direttore del centro di medicina naturale all'ospedale San Giuseppe di Empoli, che ci indicherà i rimedi fitoterapici da utilizzare, e ci collegheremo anche con il professor Bonsignori, che è medico della scuola di specializzazione di idrologia medica e clinica termale dell'Università degli Studi di Pisa, che ci aiuterà a scegliere le acque termali e i relativi trattamenti che aiutano gola e orecchie a stare bene e nel caso a riprendersi in fretta. Dottor Franzetti, allora iniziamo a capire, partendo dalla descrizione del tipo di dolore, qualcosa in più del nostro mal d'orecchio. A volte arriva all'improvviso, soprattutto di notte. A volte arriva all'improvviso, ci sono delle piccole manovre che noi possiamo fare sul nostro orecchio per renderci conto esattamente di che cosa potrebbe essere. Per esempio, è importantissimo provare a vedere se il dolore acuto che abbiamo aumenta se noi tiriamo il padiglione dell'orecchio verso l'indietro, come quando si tira l'orecchio ai bambini, oppure schiacciando la parte davanti all'orecchio che si chiama trago, se aumenta in quel modo lì, oppure schiacciando dietro l'orecchio in basso, dove sì, c'è una zona dura, dove c'è l'osso. Ecco, per esempio, queste tre manovre già da sole, se aumentano il dolore all'orecchio, ci possono dare un'indicazione se è un problema del condotto, se è un problema a livello invece del timpano, se è legato del raffreddore che abbiamo avuto o se oppure è legato a qualche altro fenomeno di tipo infiammatorio. Quindi se il dolore aumenta, che cosa potrebbe essere? Spesso se il dolore aumenta tirando l'orecchio indietro o schiacciando anteriormente l'orecchio, è quasi sicuramente un problema legato al condotto. Quindi potrebbe essere un'infezione del condotto, un eczema del condotto che si è infettato, oppure una puntura d'insetto, oppure un furuncolo. Quindi qualcosa che va trattato localmente, magari con delle gocce, senza fare grosse terapie per via sistemica. Mentre invece, soprattutto nei bambini, se fa male schiacciando dietro l'orecchio, invece bisogna preoccuparsi, perché verosimilmente c'è una componente un pochettino più importante anche di tipo catarrale, e questo ci potrebbe dare l'indicazione, per esempio, a fare degli aerosol o a prendere un antibiotico. A volte dicevamo, dottor Franzetti, che arriva all'improvviso, lei ci ha insegnato queste manovre. Certo. A volte invece arriva con segnali anticipatori, ad esempio una sensazione di chiusura, certo, l'orecchio un po' pieno, il prurito. In queste due situazioni diverse, che cosa ci dicono? Allora, il prurito ci dice quasi sicuramente che potrebbe essere o una forma eczematosa o una forma micotica. Allora dobbiamo pensare, prima di tutto, se noi abbiamo già degli eczemi nel corpo, sulla pelle, da qualche altra parte, e quindi potrebbe essere in questo caso un indice di una riacutizzazione di una forma eczematosa sistemica, che anche questa va curata con delle goccine locali che vengono messe nell'orecchio. Oppure potrebbe essere, per esempio, una sensazione di ottundimento, cioè di chiusura dell'orecchio, che potrebbe essere legata a un tappo di cerume oppure una micosi. E allora dobbiamo pensare, per esempio, se siamo stati in piscina, perché spesso la piscina o sviluppa delle infezioni di tipo micotico. Di funghi, vero? Sì, funghi, sono i funghi che si prendono, che possono prendere anche l'orecchio, oppure può aver gonfiato un tappo di cerume che noi avevamo prima di andare in piscina nell'orecchio. Perché? E lo sappiamo che il cerume a contatto con l'acqua proprio si gonfia. E certo, a quel punto però bisognerebbe da un medico farsi pulire e lavare l'orecchio, perché altrimenti il fastidio non passa. Dottore, il dolore può essere continuo, proprio trafittivo o intermittente, quando diciamo l'orecchio che pulsa, no? Che batte. Certo. Allora, il dolore continuo è quasi, diciamo, quello proprio pungente, urente, è quasi sicuramente o un problema del condotto uditivo, soprattutto in estate, legato al sudore che crea proprio una situazione per cui possono svilupparsi le cosiddette otiti esterne, cioè delle forme che prendono il condotto e il padiglione. Sì. Oppure se abbiamo invece una sensazione di chiusura, di pulsazione o di un dolore che è altalenante, un po' sordo e un po' urente, invece quasi sicuramente invece origina da un problema di tipo catarrale, cioè tubarico, cioè legato a quel canalino che collega l'orecchio col naso e che permette di ventilare normalmente la parte dell'orecchio che sta dietro il timpano e che se si riempie di catarro o non ventila bene ci dà questo tipo di disturbo. Quindi meglio, a differenza di quello che noi possiamo pensare, è meglio averlo continuo il dolore perché è meno seria la situazione che averlo intermittente perché il problema è più serio, anche se salute. Diciamo che quello della parte esterna dell'orecchio è quello che forse fa più male, ma che se si risolve prima, se è trattato adeguatamente. Come sempre meglio non averlo, ma nel caso, ecco, abbiamo altri due aggettivi, dottor Franzetti, di cui occuparci, localizzato o irradiato. Ecco, sì, questo è importante, perché spesso, soprattutto quando domandiamo fa male l'orecchio, dove fa male l'orecchio, vengono indicati dei punti diversi, magari davanti all'orecchio, dietro l'orecchio, oppure uno si tocca tutta la faccia, tutta la parte della faccia o della testa di quel lato e non riesce a identificare il dolore proprio nel condotto uditivo o nell'orecchio, sì. Però dice che ha mal d'orecchio. Ecco, questo tipo di dolore può derivare invece da altri distretti che stanno vicino all'orecchio, i denti, le articolazioni temporomandibolari, uno stato muscolo tensivo, spesso un torcicollo può essere confuso con un mal d'orecchio. E allora se non è adeguatamente diagnosticato, cosa succede? Che uno magari fa le terapie antibiotiche, aerosoliche, quant'altro, il dolore non passa, ma perché non ha un problema all'orecchio. Ma lei non ha qualche indicazione così come ci allora, ha fatto per esempio, che mi piacciono così tanto? Per esempio il torcicollo, se uno prende tra due dita quel muscolo che sta proprio sotto l'orecchio e che scende nel collo, che è un muscolo che si palpa normalmente, sì, che si chiama sternocleidomastoideo, è un nome così ridondante, sì, e lo schiaccia con una certa energia, sì, se uno ha un torcicollo, cioè un'infiammazione di tipo muscolare o tendinea, ecco che aumenta il dolore che lui riferiva all'orecchio. Certo. Allora, oppure se stira la testa da un lato o verso l'indietro o verso l'avanti e questo aumenta il dolore all'orecchio, verosimilmente è un problema non legato all'orecchio ma più muscolare o articolare. Oppure se il dolore aumenta facendo picchiettando leggermente sui denti o stringendo forte i denti come se uno dovesse proprio masticare forte qualcosa, sì, e aumenta il dolore irradiato all'orecchio, allora varrebbe la pena farsi vedere dal dentista che valuta non solo il dente ma anche l'occlusione dentaria e l'articolazione temporomandibolare. Dottor Franzetti, io vorrei parlare di due tipi di mal d'orecchio che si presentano in due situazioni molto differenti. Sì. Il mal d'orecchio che si scatena quando siamo in aereo è altrettanto fastidioso quello che compare dopo l'immersione. Sì. Dottore, io vorrei che lei mi dicesse se questi problemi dipendono dalla tecnica, ad esempio la mancanza di compensazione per chi fa immersione, o invece rivelano una sofferenza dell'orecchio che trovandosi in situazioni, mi lasci dire, estreme, si lamenta. Ma per quel che riguarda l'aereo, i due momenti, diciamo, critici sono il decollo, ma soprattutto l'atterraggio, quando si altera la pressione nell'orecchio. E qui la situazione è diversa se abbiamo a che fare con un bambino piccolo piuttosto che con un adulto. Sì. Nel bambino non possiamo pretendere che compensi da solo e allora bisogna fargli succhiare una caramella piuttosto che ciucciare il ciuccio o il biberon, piuttosto che fargli bere sorseggiando con una cannuccia magari una Coca-Cola o qualcosa, ecco, che gli permetta di compensare senza volerlo. E questo qua abbiamo già dato un'indicazione. per l'adulto? Beh, ad esempio, per l'adulto invece di solito la difficoltà a compensare non è tanto legata a un problema di tecnica, perché l'adulto è capacissimo di compensare. Al massimo si mastica una cicca, no? Il cosiddetto chewing gum, sì. E questo aiuta a migliorare la compensazione, ma se in maniera ricorrente c'è questo disturbo, bisogna indagare un pochino la questione, perché vuol dire che qualcosa non funziona bene o nella tuba, oppure nel naso o nel rinofaringe, cioè nella parte che sta dietro al naso. Se il mal d'orecchio arriva, però, cosa faccio? Consigli un SOS per i bambini e per chi bambino non è più. Cose da fare e anche le cose da evitare, perché talvolta, presi un po' dal desiderio di calmare subito il dolore, facciamo anche qualche imprudenza. Certo. Allora, per quel che riguarda i bambini, la prima cosa da considerare è che difficilmente i bambini mentono sul mal d'orecchio. E quindi quando un bambino si lamenta o piange perché ha mal d'orecchie, oppure dice che non ci sente da un orecchio, bisogna sempre considerarlo. Sì. Il fatto che dica che ha molto mal d'orecchio, la prima cosa da fare è cercare di non fargli far male. Sì. E quindi l'ideale non è sicuramente dare un antibiotico o mettersi a fare gli aerosol, perché non danno un sollievo immediato, ma la cosa da fare è una suppostina di un antinfiammatorio o un antinfiammatorio associato a un analgesico, e già ci sono in commercio, associato a delle gocce auricolari, meglio se contengono un anestetico, anche queste sono in commercio. Non bisogna farsi prendere dalla paura di dire: oddio, ci sarà la perforazione del timpano, non devo mettere le gocce. Non abbiate paura, anche se sul bugiardino c'è scritto così per salvaguardare giustamente le case farmaceutiche, ma quando l'orecchio fa male è meglio mettere abbondantemente le gocce nell'orecchio, contenenti anche degli analgesici, che non succede niente. Per quel che riguarda gli adulti, sì? E chiaramente nei bambini poi bisognerà fargli una diagnosi. Certo. Per quel che riguarda gli adulti, invece, anche qui l'approccio al mal d'orecchio è un analgesico, un antinfiammatorio per via generale e per bocca, di solito, associato anche qui a delle gocce, sempre date localmente, meglio se contengono un anestetico. E ci ha raggiunto, come anticipato, il professor Fabio Firenzuoli, direttore del Centro di Medicina Naturale all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Professore, benvenuto anche a lei. Salve, buongiorno a lei, ascoltatori. C'è un rimedio fitoterapico per prevenire il danno? Se sento che, insomma, qualche cosa è successo e temo che a farne le spese sia la mia gola, cosa posso fare, dottore? Diciamo, quando c'è un mal di gola che chiaramente non richieda l'uso dell'antibiotico o di altri farmaci di sintesi importanti, una pianta che ha un'attività sostanzialmente antinfiammatoria e quindi può essere usata per le sue proprietà, come dire, astringenti, ecco, sulla fase vascolare dell'infiammazione, è senz'altro l'acrimonia. L'acrimonia, sì, è una pianta ricca di tannini che hanno un'attività debolmente disinfettante e soprattutto antinfiammatoria. La si può usare per esempio per gargarismi, ma anche la si può assumere in estratto idroalcolico o in polvere in compresse, cioè per bocca. Altrimenti, quando ci sia anche il sospetto di un'infezione virale, che sono oltretutto le più comuni, si può ricorrere, sempre rimanendo, come dire, nel banale, a estratti di propoli. Ma ecco, questi due consigli valgono anche per i bambini, dottore? O per i bambini si fa un discorso a parte, erbe diverse? Diciamo che nei bambini abbastanza piccoli, sostanzialmente sotto i 2-3 anni, questi prodotti non vanno usati, ma i prodotti a base di erbe in genere, primo perché sono amari, secondo perché spesso invece c'è bisogno anche di una terapia antibiotica, e ricorrere a questi prodotti, che oltretutto sono anche rischiosi, pensiamo soprattutto ai bambini piccolini, pensiamo ai prodotti a base di propoli, soprattutto quelli in forma di spray, sono oggettivamente pericolosi, per cui escluderei, ecco, proprio i bambini. Ecco, ho fatto giustamente questa precisazione perché voglio che le mamme siano informate. Tante volte noi mamme abbiamo il timore di dare ai bambini i farmaci, ed è giusto, perché il farmaco va dato solo quando è necessario, e ripieghiamo volentieri sui rimedi naturali, che, perché dottore, lei lo sa bene, no? Si pensa tutto quello che è naturale o fa bene o male non fa. Invece, niente di più sbagliato. Lo so che lei da anni con il suo centro si batte, no? per questo. questo per fare informazione e per evitare queste, l'utilizzo, no, insensato e a volte pericoloso di queste erbe. Grazie dottor Firenzuoli per essere stato con noi, buona giornata. Grazie. Ma la gola proprio la fatica a deglutire, la gola che sembra gonfia e la vediamo proprio rossa, è doloroso. Ecco, cosa si fa? Sciacqui? Si prendono? Che cosa si può fare? Allora, la prima cosa è cercare di idratarsi, nel senso di bere e di umidificare, magari con quei rimedi della nonna, tipo il pentolino con l'acqua che bolle dentro un po' di bicarbonato oppure qualche balsamico, che sì, sicuramente dà sollievo. Poi, nell'uso immediato si possono utilizzare, sono in commercio parecchi spray che contengono sia dei disinfettanti che degli anestetici. Sì. Però stiamo attenti, perché l'utilizzo prolungato di questi spray, cioè possiamo usarli 3-4 giorni, ma poi se non passa va sospesa questa terapia, perché a lungo andare gli anestetici danno assuefazione, anzi rovinano le mucose della gola, e quindi va bene solo come pronto soccorso ma non come trattamento a lungo termine. L'introduzione di analgesici o antinfiammatori sicuramente può essere un rimedio immediato. L'utilizzo degli antibiotici invece va riservato solo nei casi di febbre o di mal di gola prolungato dopo almeno 48-72 ore. E deve essere il medico a prescriverceli. Posso aggiungere questo? Questo per forza. Ecco, in linea con noi ci ha raggiunto il dottor Fausto Bonsignori, medico della scuola di specializzazione di idrologia medica e clinica termale dell'Università degli Studi di Pisa. Buongiorno e bentornato. Buongiorno a lei Nicoletta, buongiorno a tutti. Parlando di mal di gola e mal d'orecchio, non potevamo parlare che di terme, di acque termali, da sempre associate all'idea di cura e di benessere. Allora, dottore, ci aiuti lei? Quali sono le acque ideali per la salute di naso e gola? Dunque, le acque principali che noi possiamo utilizzare in queste affezioni sono due principalmente. Sono le acque cosiddette sulfuree, sì, che contengono una percentuale di zolfo, e le acque cosiddette salzobromoiodiche, che hanno un'altra caratteristica. Quindi le nostre stazioni termali sono ricchissime di queste acque. La possibilità di utilizzarle varia un po' dalla condizione clinica e varia anche soprattutto il modo di utilizzarle, perché si possono utilizzare come aerosol, come nebulizzazioni, come omaggio. Sono un po' diversi i metodi di applicazione a seconda del distretto dove vogliamo arrivare, perché noi abbiamo un albero respiratorio, no? Quindi sui grossi tronchi arrivano le grosse particelle, sui piccoli tronchi, quindi sui bronchi, sui bronchioli, magari arrivano le particelle più fini, più piccole. Per le prime vie respiratorie, quindi riniti, faringiti, laringiti, sono utilissimi per esempio le inalazioni a getto diretto di vapore, oppure anche gli umage, oppure anche le nebulizzazioni. Quindi queste sono un po' le modalità. Sì. Poi da acqua a acqua c'è differenza, perché l'acqua è un medicamento. Non dimentichiamo che l'acqua termale comunque può essere considerata come un farmaco, e va utilizzato nelle forme croniche. E in qualche modo ci aiuta a evitare le recidive, per questo. Ma pensi a tutti quei bambini, ma anche adulti, che si ammalano frequentemente delle prime vie respiratorie, quindi il processo focistico infiammatorio magari non guarisce completamente, rimane e tende a cronicizzarsi con ipertrofia delle mucose, quindi la patologia che quasi si automantiene. In questo caso una buona terapia termale, con acque termali, in questo caso magari salzobromoiodiche, che sono acque che si possono trovare un po' in tutta Italia, con queste si può interrompere questo ciclo, diciamo, vizioso che determina il perpetuarsi della malattia e addirittura qualche volta il cronicizzarsi. Questo è un aspetto. Poi l'aspetto quando c'è una forma più purulenta, più produttiva, come si dice in termini medici, in quei casi lì allora sono più utili le acque sulfuree, che sono quelle che hanno un po' quell'odorino strano. Sì, le acque sulfuree. Tanto per farlo, che così ci capiamo. Le acque solfate, no, ma le sulfuree sono proprio un cattivissimo odore. Ecco. Però sono buone. Però ecco, hanno un odore cattivo, ma funzionano davvero. Grazie al dottor Franzetti, grazie al dottor Bonsignori. Buona giornata a voi e buon lavoro. Arrivederci. E adesso ci fermiamo un attimo e poi torniamo subito dopo insieme. Dedichiamo l'ultima parte della trasmissione alla giornata mondiale contro la violenza alle donne, che si celebra proprio oggi, e allora abbiamo deciso di fare con voi una riflessione su questo tema che oggigiorno appare in modo eclatante, ce ne rendiamo conto, no? Lo leggiamo sulle prime pagine dei media. Ricordiamo che in Italia di recente ben 19 donne sono state uccise dai partner, dai propri partner in meno di un mese, ma che ancora più frequentemente rimane chiusa nel silenzio delle case e lascia segni sul corpo, sul cuore delle donne, segni invisibili perché magari coperti dai vestiti, dalla negazione delle stesse vittime, ma segni che bruciano proprio profondamente, come delle ferite mai curate. Ascoltiamo insieme questa scheda che ci fa comprendere di quale problema stiamo parlando. La violenza di genere è la violenza perpetrata contro donne e minori, basata sul genere, ed è ritenuta una violazione dei diritti umani. Questa terminologia è largamente usata sia a livello istituzionale che da persone e associazioni di donne che operano nel settore. Le ricerche compiute negli ultimi 10 anni dimostrano che la violenza contro le donne è endemica nei paesi industrializzati, come in quelli in via di sviluppo. Le vittime e i loro aggressori appartengono a tutte le classi sociali o culturali e a tutti i ceti economici. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, almeno una donna su 5 ha subito abusi fisici o sessuali da parte di un uomo nel corso della sua vita. E il rischio maggiore sono i familiari, mariti e padri, seguiti dagli amici, vicini di casa, conoscenti stretti o colleghi di lavoro o di studio. E oggi ci vogliamo occupare di due fenomeni. Uno che avviene a livello macrosociale, che ha come vittima le donne, ed uno invece sommerso, chiuso nella dimensione micro delle relazioni familiari. Per parlare del primo livello, in linea con me le due autrici di un libro molto toccante e molto crudo, intitolato Schiave, pubblicato da Edizioni San Paolo. Saluto e ringrazio Anna Pozzi, giornalista e scrittrice. Benvenuta Anna, grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. E lì ne abbiamo anche Suor Eugenia Bonetti, missionaria della Consolata, è stata in Kenya per ben 24 anni. Suor Eugenia, buongiorno e benvenuta anche a lei. Buongiorno anche a voi tutti. Anna, voi, parlando delle donne che raccontate nel libro, ci tenete a specificare che non state parlando di donne prostitute, bensì di donne prostituite. Allora, ci aiuti a capire bene la differenza? Sì, questo libro fa parte di un progetto intitolato Mai più schiave, che vuole un po' cambiare lo sguardo su un fenomeno che troppo banalmente e superficialmente viene definito prostituzione. Noi vogliamo invece guardare un po' al di là dell'apparenza e parlare di qualcosa di molto più grave, che è il traffico di esseri umani per lo sfruttamento sessuale, di cui queste donne sono vittime. È per questo che non parliamo di prostitute ma di prostituite, cioè di donne costrette a vendere se stesse per pagare, ad esempio, come nel caso delle nigeriane, un debito enorme. Queste ragazze sono in strada non per scelta, ma perché non hanno scelta, e questo è importante da sottolineare, perché altrimenti non si fa altro che reiterare cliché o luoghi comuni che vengono appiccicati addosso a queste donne, che invece sono appunto delle vittime di un traffico molto molto redditizio, fatto letteralmente sulla loro pelle. Un giorno il mio protettore mi ha picchiata come una bestia. Credevo mi avrebbe ammazzata. Era furioso perché ero stata troppo a lungo con un cliente senza fargli pagare di più. Sospettava chissà che cosa. E allora mi ha picchiata e bastonata. Poi ha tirato fuori un coltello, ma alla fine non l'ha usato perché diceva che gli potevo ancora servire. E allora mi ha violentata. Quindi mi ha sbattuto sotto la doccia gelata perché non uscissero i lividi. Poco dopo sentivo che urlava al telefono con qualcun altro. Suor Eugenia, cosa vuol dire avvicinarsi a queste donne? Avvicinarsi a queste donne vuol dire avvicinarsi ad un mondo di grande sofferenza, a un mondo di persone che vivono sulla loro pelle l'emarginazione, lo sfruttamento, l'umiliazione, il disprezzo, e dall'altra parte la richiesta, perché se queste donne oggigiorno sono ancora molte sulle nostre strade e molte altre sono state nascoste nei locali perché non siano viste, ma che pur ci sono. Questo è un mondo di una grande che porta dentro una grande sofferenza, e noi avvicinandoci a loro ci avviciniamo a donne che hanno voglia di vivere, di sognare, di avere una vita diversa, di avere una vita normale come tutte le altre donne, e si trovano costrette sulle strade a vendere il loro corpo, non per scelta, non per un guadagno proprio, ma per arricchire i molti trafficanti e le molte realtà che girano attorno al mondo di queste donne schiave per la tratta della prostituzione. Suora Eugenia, che cosa significa per una suora avvicinarsi a questo tipo di donne? Prima di tutto, quando per la prima volta io mi sono avvicinata a questo mondo della notte della strada, ho avuto una grande rabbia. Una rabbia dentro, perché mi sono resa conto che ogni persona umana è nata con una grande dignità, con una grande voglia di vivere e di realizzarsi, e noi le abbiamo ridotte a semplicemente merce. E qui noi abbiamo una grande colpa come mondo occidentale, mondo del benessere, che queste donne sono sulla strada non perché lo vogliono, ma perché sono richieste. E quindi è la nostra richiesta che mi ha fatto arrabbiare. Io sono andata in Africa per aiutare queste donne a ritrovare la voglia di vivere, di emanciparsi, di diventare persone normali che potessero occuparsi della loro vita, del loro futuro, e poi ritornando nel mio paese, da dove io sono partita per la missione, ho trovato queste stesse donne sulle nostre strade e mi sono sentita umiliata come donna, come religiosa, come missionaria, e mi sono sentita ribellare e ho detto: devo fare qualcosa, perché la missione oggigiorno non è più solo geografia, andare in Africa, ma la missione ce l'abbiamo in Italia. E dobbiamo renderci conto di questo. Anna, molte di noi, anche molte di noi donne, pensano che questi sono un po' problemi lontani dal nostro tran tran quotidiano, dalla ferma sicurezza della nostra quotidianità. Invece, per cambiare le cose occorre anche un cambio di mentalità di ciascuno di noi. Abbiamo sentito, suora Eugenia, la rabbia, no? Come donna, lei ha detto, e poi come religiosa. Da dove si inizia e che cosa può fare concretamente ciascuna donna per occuparsi, per fermare, per indignarsi contro questa violenza che sta sulle strade, ma che in fondo ci appartiene? Innanzitutto, questo libro non è solo un libro di denuncia, lo è chiaramente, appunto, contro questo traffico, contro lo sfruttamento e contro la riduzione in schiavitù, ma è anche un libro che vuole lanciare un messaggio positivo e propositivo per dire che qualcosa si può e si deve fare. L'esempio di suora Eugenia è un esempio importante, perché lei è la responsabile dell'ufficio tratta donne e minori e coordina in Italia un insieme di circa 250 religiose di 70 congregazioni diverse, che lavorano in più di 100-110 progetti e sono di tutte case di accoglienza, cioè luoghi in cui a queste donne viene data un'altra possibilità di riscatto, di dignità, di vita. Ma questo impegno non deve essere ovviamente limitato alle religiose, ci sono già tanti altri che lavorano in questo campo a questo livello, ma deve essere un impegno di tutti noi, non solo donne ma anche uomini, perché i clienti sono per la gran parte uomini, e quindi c'è un importante lavoro di sensibilizzazione e di educazione che va fatto a tutti i livelli: famiglia, scuola, società. Suora Eugenia, come si fa a strappare una donna dalla strada a lavorare su quel che voi definite donne non prostitute, ma donne prostituite? Prima di tutto bisogna poter offrire loro delle opzioni, delle opportunità di un cambio di vita e di una possibilità di un riscatto vero e proprio da un punto di vista umano, legale anche, soprattutto perché c'è bisogno anche di questo, per ridare a questa donna la voglia di vivere e di essere donna. E noi in questo servizio abbiamo una realtà da affrontare: se non ci sono delle opportunità, no, questa donna dove va? Cosa fa? Invece, quando c'è un'opportunità di dire: c'è una casa che ti accoglie, una casa che ti aiuta a recuperare il tuo senso di donna, una casa che ti offre anche l'opportunità di una legalità, non sei più clandestina, ma diventi una persona con un nome, con un'identità, con il tuo passaporto, con la tua possibilità di un lavoro onesto, redditizio, perché tu possa aiutare aiutare te stessa, la tua famiglia e riappropriarti della tua vita. Allora in questi casi l'aiuto è veramente concreto. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e poi torniamo subito dopo insieme. E siamo tornati insieme. Oggi 25 novembre si celebra la giornata mondiale contro la violenza alle donne. In linea Anna Pozzi, giornalista e scrittrice, e suora Eugenia Bonetti. Parliamo di donne che si prostituiscono sulle strade, a cui voi dedicate un libro, Schiave. Perché, Anna, che cosa può dare la lettura del vostro libro oggi? Che cosa può aggiungere? Quale spunto di riflessione può darci? Sulla violenza che queste donne subiscono a tutti i livelli, già nei paesi di origine, dove vivono in situazioni spesso di miseria e degrado, durante questi viaggi impossibili che, a cui vengono sottoposte dai trafficanti, penso soprattutto alle africane, e poi qui, sia perché sono ridotte in condizioni di schiavitù, sia perché subiscono abusi fisici, alcune di loro sono state addirittura uccise, sia perché subiscono anche violenze e traumi psicologici, emotivi, spirituali, e quindi far vedere anche questo lato di questo fenomeno che coinvolge davvero decine di migliaia di donne qui in Italia è qualcosa che ci tocca molto da vicino. Io ringrazio Anna Pozzi e suora Eugenia Bonetti per essere state con noi. Ricordo il titolo del libro, Schiave, pubblicate da Edizione San Paolo. Buona giornata. Grazie anche a voi. Buona giornata e buona giornata a tutti. Arrivederci. E dal livello macro, come vi ho detto, passiamo al livello micro. Dalla strada alla casa, alle mura domestiche, perché in linea con me ho Ada Celica, autrice di un libro che esce proprio oggi, pubblicato da Mursia, si intitola Io e le spose di Barba Blu, che racconta una storia di violenza molto privata. Ada, intanto benvenuta e grazie. Grazie a voi. Una storia di violenza, ma... mi piace dire una storia di grande coraggio. Sì, appunto. Vorrei che la parola violenza, oppure meglio, la parola vergogna che accompagna sempre la parola violenza, si accompagnasse, si sostituisse la parola coraggio. La violenza la porti ancora nel cuore, anche se adesso sei riuscita con questo atto coraggioso a parlarne? Certo, e sono cose che ti segnano per tutta la vita, non se ne esce veramente dentro mai. Cioè, le sofferenze troppo grandi rimangono, segnano, sono delle ferite che ogni tanto fanno male. È un pugno, c'è stato un pugno che è la famosa goccia che ha fatto traboccare il vaso, che ti ha detto Ada, adesso basta. Dove hai trovato il coraggio? Beh, il coraggio viene dallo scegliere la vita, perché ti rendi conto che quella non è vita, che può... quello che hai cercato di mantenere sotto controllo, che appunto salvarti la vita, a un certo punto può non essere più così, che la vita è in gioco ed è in gioco veramente, allora devi vivere e prendi una valigia e te ne vai. Botte dopo botte, violenze dopo violenze, ad ogni volta tu ti ritrovavi nella stessa scena del film e ripetevi questo dramma. Quante ferite hai ancora aperte nel tuo corpo e nel tuo cuore? Tantissime. Però, voglio dire, con la scrittura di questo libro, quindi vorrei anche dire che comunque la scrittura per me non è solo un'azione terapeutica, perché lo faccio per professione, e io lo facevo già, ero già una scrittrice. E quindi aver elaborato comunque durante una stesura molto sofferta, che è durata ben quattro anni, è servito anche a, non dico ad eliminare queste ferite, perché come dicevo prima si aprono ogni tanto, ma soprattutto per fare qualcosa perché questa piaga prima o poi si rimargini. La piaga della violenza domestica, certo. Alludo non alla mia piaga, alla piaga che sta comunque imperversando e un po', come dire, segnandolo un po', ma parecchio, la nostra società. Ada, ci sono delle donne che ti hanno avvicinato e ti hanno chiesto aiuto, ti hanno chiesto di dargli la ricetta in qualche modo per chiudere con una storia di violenza e provare a rimettersi in gioco, ad affrontare una nuova vita? Sì, molte donne mi hanno scritto, però in realtà io non sono la persona proprio adatta, io posso solo con la mia storia consigliare, no? Le donne che vivono in una condizione di violenza domestica o altro possono rivolgersi ai centri specializzati, che sono quelli che ti supportano. Certo, quindi il tuo invito, Ada, è uscite dal silenzio. Uscite dal silenzio, sì. Se l'ho scritto in prima persona e non ho usato, come avevo pensato in un primo momento, la terza persona, è stato proprio perché ritengo che questa sia anche un'azione politica, di politica delle donne. Cioè dire esco con la mia faccia, con il mio nome, sicuramente voglio dire non è facile, ma penso che possa incidere di più e possa essere più positivo, un po' come dire, attirare l'opinione pubblica, gli operatori, le donne che vivono questa situazione. Non c'è una ricetta, non vorrei dire che la cosa è una cosa da fare con leggerezza, perché altrimenti poi magari una donna ci rimette qualche altra cosa. Ecco, va fatta, va ponderata con i centri antiviolenza che sono in ogni città d'Italia, per fortuna 20 anni a questa parte. Bisogna farsi aiutare, ma il primo passo è uscire dal silenzio. Uscire dal silenzio, parlarne, perché non è una vergogna. Invece quello che accompagna questa dimensione, diciamo, della vita, del privato, è sempre questo sentimento di vergogna che pervade sia nella donna che subisce che nei familiari. Non è vergogna, è coraggio, anche per gestirla una cosa del genere durante gli anni della convivenza o del matrimonio. Altro che coraggio ci vuole. Certo. Senti Ada, con te lanciamo alle ascoltatrici la richiesta di scriverci le loro storie, mandateci una mail all'indirizzo esserebenessere @radio24.it, perché nelle prossime settimane inviteremo in studio Ada e con lei affronteremo in modo più approfondito questo tema, ascolteremo la sua storia, parleremo del suo coraggio, delle sfide che ha dovuto affrontare, e le vostre storie ci aiuteranno, soprattutto faremo, come si dice, rete tra noi donne, vedremo dove cercare aiuto e soprattutto, come dice Ada, a cancellare quel sentimento di vergogna che molte donne provano proprio essendo vittime. Ada, io ti ringrazio per essere stata con noi. Vi ringrazio voi e aspettiamo allora gli iscritti delle donne che sicuramente saranno una cosa ottima. Grazie allora ad Ada Celico, ricordo io le spose di Barba Blu. Per oggi, care amiche, è tutto. Io vi aspetto domani, come sempre, dopo il GR delle 11. Essere e benessere.